America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da Roma, Mario Platero. Sono nella nostra capitale non al seguito di un presidente americano, ma per una cosa di cui devo dirvi sono molto orgoglioso. Forse non dovrei parlare di cose alle quali ho contribuito nel mio programma, ma mi concedo questa debolezza e lo faccio, e cioè la presentazione di un libro che ho curato per conto del mio gruppo e per conto dell'Istituto Italiano per il Commercio Estero. C'è stata un'associazione per produrre questo volume, The Italian Edge Technology for Sustainability. Sono 18 casi in cui si vedono le frontiere più avanzate dell'alta tecnologia italiana e in questo caso applicata alla sostenibilità e dunque all'ambiente. Devo dire che ci sono stati dei casi di straordinario interesse fra queste 18 analisi che abbiamo condotto. Per esempio Davi, lo immaginavate che una piccolissima azienda di Cesena fosse in grado di vincere un concorso della NASA per produrre il nuovo involucro d'acciaio dei prossimi razzi che sostituiranno lo shuttle? Ebbene, l'ha vinto un'azienda italiana, era un concorso aperto a tutto il mondo. Oppure abbiamo gli esempi delle grandi, non so, l'Eni, che ha fatto degli impianti di depurazione molto importanti in Nigeria, l'Enel, che ha creato uno dei più grandi parchi eolici negli Stati Uniti d'America, Impregilo, che non solo ha costruito un impianto geotermico in Islanda che è finito su un documentario di National Geographic, ma si è aggiudicata il contratto per allargare il canale di Panama, tra l'altro con una tecnologia che consente di utilizzare l'acqua, di trasformarla in acqua dolce e usarla poi per l'irrigazione. E ai microfoni di America 24 abbiamo Mariano Pane, presidente di Globeco, che è una delle aziende, una delle 18 aziende di cui abbiamo dato conto in questo libro, un'azienda che fa una cosa molto particolare, si occupa di ripulire i mari, le acque, della pollution, degli inquinamenti e quindi ha un contributo ovviamente molto importante sul piano ambientale e riesce a vincere concorsi a livello internazionale. Allora Mariano Pane, buongiorno. Buongiorno. Ci dia un'idea della dimensione della sua azienda, quanti dipendenti ha? Sono 150 dipendenti. Ecco, un'azienda di 150 dipendenti che riesce ad affermarsi sul piano internazionale, probabilmente in competizione, sì, certo, con dei colossi, su attività, su operazioni che hanno alto contenuto tecnologico. Qual è il suo punto di forza, secondo lei? L'innovazione, soprattutto, il modo di operare in una maniera diversa dalla tradizione. Le nostre navi sono navi multipurpose, cioè fanno diverse cose, raccolgono il petrolio sversato in mare, raccolgono il macro inquinamento galleggiante che fa soprattutto per il Mediterraneo, che vede ogni anno 150 milioni di visitatori e che vede le proprie acque più che inquinate, sporche da buste di plastica eccetera, che vengono mangiate poi dai cetacei, dalle tartarughe, dagli squali, creando delle situazioni disastrose. Quindi adesso la comunità europea ha molto preso in considerazione questo problema e sta facendo molto per incoraggiare le nazioni che stanno sul Mediterraneo a fare qualcosa contro questo nuovo flagello che dalla terra arriva al mare. Ai microfoni di America 24 abbiamo anche Umberto Vattani, il presidente dell'ICE, l'istituto che ha lanciato questo progetto, un progetto che poggia su questo libro Technology for Sustainability, ma che ha in programma e che ha fatto anche altri libri. Buongiorno ambasciatore Vattani. Allora, ci sono delle sensazioni a volte, insomma, se a qualcuno a livello mondiale si chiede, dice, ma l'Italia per che cosa è famosa? Probabilmente se si parla di alta tecnologia, di ambiente e di essere in grado di competere a livello internazionale, magari siamo in basso alla lista, è vero? Sì, è proprio così. Normalmente si pensa alla moda, alla gastronomia, ai beni di consumo, ma non tutti si rendono conto che noi siamo molto forti in questi campi perché abbiamo dei veri e propri gioielli nel campo delle macchine. È proprio la qualità delle nostre macchine utensili, della capacità italiana nel campo della tecnologia, se riusciamo poi a superare tutti gli altri, a creare degli oggetti mitici o leggendari, come quelli che prendono il nome del Made in Italy, a questo compito di svelare come dietro questa paletta straordinaria di colori molto attraenti c'è in realtà una capacità tecnologica di avanguardia. L'ICE ha tradizionalmente avuto una missione molto mirata sull'esportazione e la promozione di prodotti tradizionali. Ecco, con questo libro, soprattutto questo libro sulla tecnologia per l'ambiente, quindi stiamo parlando di una delle frontiere più avanzate di quello che è lo sviluppo imprenditoriale, la concorrenza globale, state diversificando e aggiungendo altre missioni a quella che è la vostra missione centrale? Direi proprio di sì. La promozione oggi è molto diversa da quella che avevamo fino a pochi anni fa. Noi ci rendiamo conto che in un mondo globale dobbiamo proiettare un'immagine molto più articolata, molto più approfondita di quelle che sono le nostre capacità. Noi abbiamo delle straordinarie capacità in Italia, per esempio nel campo delle costruzioni, ma non possiamo lasciar sole le aziende che fanno le fondazioni e poi dimenticare che ci sono quelli che fanno i progetti, quelli che le realizzano, quelli che fanno gli impianti tutti interi e così via. Noi ormai cerchiamo di accompagnare all'estero l'intera filiera nel campo dei nuovi materiali di costruzione. Parliamo della missione appunto futura dell'ICE, perché poi abbiamo letto sui giornali che ogni tanto vediamo qualche parlamentare, qualche ministro si domanda se l'ICE abbia davvero una missione. Cosa risponde a coloro che qualche volta esprimono dei dubbi di questo genere? Beh, guardi, suggerirei di guardare anche quello che fanno i nostri principali concorrenti, la Francia, la Spagna, l'Inghilterra, la Germania per rimanere in Europa. Ma lo stesso discorso vale anche per i paesi extraeuropei. Ebbene, ciascuno di questi paesi ha un istituto simile al nostro. Pochi anni fa, il ministro Christine Lagarde, allora ministro del commercio con l'estero, mi invitò a una riunione a Parigi dove erano presenti tutti i direttori di Ubifrance. Mi chiese di esporre e di illustrare la nostra attività. Io chiesi alla fine, ma per quale motivo mi avete invitato qui a parlarvi di queste cose? Dice, perché sappiamo benissimo come voi italiani siete presenti e difendete fino alle più piccole imprese con successo. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno, il Monopoly in versione musicale. I Metallica si preparano a sorprendere ancora una volta i loro fan. Come? Beh, facendo una versione metal, appunto, del popolare gioco, appunto, il Monopoly. E dunque dei Metallica vi propongo The Unforgiven. Won't see you alive again. What I felt, what I've known. Never shine doing what I've shown. Never free, never me. So I don't think you. Da Roma è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.